Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Prima volta che ti chiamano asino gli dai un pugno sul naso, la seconda volta che ti chiamano asino gli dici stronzo, ma la terza volta che ti chiamano asino, beh, forse è ora che ti vai a comprare una Soma. Altra gente incontrerò e ritroverò in tutti quegli occhi la stessa vita che avevi negli occhi. Rispondi, dove sei, con chi vai, chi si prende la mia voglia di te? Non so cosa perdo, se ho già perso anche te, rispondi. Oggi finalmente abbiamo una riforma che dice: leggi fatte in modo più semplice, meno politici, via il Senato così come lo conosciamo oggi, soltanto la Camera ha il voto di fiducia, cioè meno poteri alle regioni e meno soldi ai consiglieri regionali. Ce ne sono alcuni che prendono più di quello che prende il presidente degli Stati Uniti. Mi rispondi, dove sei, con chi vai, chi si prende la mia voglia di te, rispondi. La tua minoranza vuole mettere mano alla legge elettorale, Roberta, io no. Poi, presidente, però c'entra la stacamera assunta, ragazzi ci provo, ma ti metti davanti allo specchio per fare pratica, d'apostrofo avanti, si scrive tutto attaccato davanti, non di apostrofo avanti. Ma il punto centrale è che in 63 governi, su 70 anni di vita repubblicana, sapete quanti sono i presidenti eletti? Zero. Perché quella Costituzione, che dicono di voler difendere, prevede che il Presidente del Consiglio non sia eletto dai cittadini, ma abbia il voto di fiducia della Camera e del Senato. Renzi ha scoperto i video di Facebook. E allora Matteo rispondi, rispondi. Se ho già perso anche te, rispondi. Matteo rispondi. Matteo rispondi, Matteo risponde, come si chiama? Risponde, Matteo risponde. Ha scoperto i video di Facebook e impartisce anche lezioni di italiano a dei poveri sprovveduti, si sa, la gente di base, anche a me, quando scrive, mi scrive qual è con l'apostrofo, mi scrive sono andato a mangiare A con l'H, insomma, alcuni, non tutti. Ovviamente, però davanti, davanti di apostrofo avanti si scrive davanti tutto attaccato, cara critica gufa maledetta che mi fai questa domanda cattiva. Questo non l'ha detto ovviamente, ma forse l'ha pensato. E allora si mette lì in queste ora e mezza su Facebook e risponde un po' a tutti. No, lo dico perché attenzione, annuncio ufficiale, annunciazione. Peter Bescapè ha già capito perché gli è arrivato l'invito. Ho la pagina ufficiale su Facebook, la pagina, il profilo, come dire, il profilo pubblico Alessandro Milan, giornalista di Radio 24 Sogni, tutto con una foto impettito. Ecco, se mi seguite lì mi fate una cortesia, perché generalmente non do l'amicizia a persone che non conosco. Quindi ho la mia pagina personale, ma quello è il profilo pubblico. Bello mio. Brocchi rispondi. Farò Brocchi rispondi, anch'io farò i video. Noi siamo Brocchi. Farò Brocchi ma non troppo. Noi siamo il Milan di Brocchi. Non lo so, mi devo inventare qualcosa, anch'io apparirò in video, tutto impettito, e impartirò lezioni di geografia, non di italiano, di geografia a tutti. Allora, sono le 6:34 minuti, cari amici, questo è 24 mattino, buongiorno e ben svegliati, C'è il nostro Lorenzo Nespoli, ormai tornato dalle ferie, l'effetto ferie è disintegrato sul suo volto. C'è il nostro Peter Bescapè in regia e c'è il nostro Vincino, uno che Eccoci. Questi strumenti, lo sapevi di questi strumenti su Facebook, Matteo Rispondi? No. No. No, no, cioè l'ho seguito su Twitter, devo dire. Là, Ma lì non c'è il video, forse? No, il video ce l'avevo con la televisione, è vero. No? Cosa fai? Sono all'antica, dai. Con uno dei canali Sky, dei 280 canali Sky, c'era là. Vabbè, ma lì deve apparire su Sky, mentre invece ha scoperto questa cosa Matteo Risponde. E io ancora non l'ho scoperto, hai ragione. No, ma io Facebook mi dà proprio fastidio. Perché? È insopportabile, pieno di gente amica che non l'ha mai conosciuta in vita mia, sì. Chi cazzo sei tu? Ma non lo so, che vuoi? Da me, che ogni tanto metto una vignetta e dicevo cose che ma non ho mai bevuto un caffè con te, chi esattamente, sei? Esattamente, sì, no, poi sono tutti insopportabili, bisogna tutti, dire, tutti. Quasi tutti. Perché poi c'è qualche... Vabbè. Allora, Vincino, insieme a Vincino abbiamo il direttorone, chissà se il direttorone segue invece Renzi su Facebook, è Umberto Brindani, direttore di Oggi, buongiorno, ciao Umberto. Buongiorno Alessandro, buongiorno Vincino. Quanti amici hai tu su Facebook? Ma guarda, qualche giorno fa ho compiuto gli anni. Sì? Auguri! A saperlo. Grazie, e improvvisamente hanno cominciato ad arrivarmi auguri da persone che non sentivo da mesi, da anni. Sì, poi sì. Mi sono ricordato, ah già, ho una pagina Facebook. Esatto. Beh, vedo due sul pezzo, insomma, due molto sul pezzo. Il nostro... Però mi fa piacere vedere che Renzi si sta preparando un futuro da correttore di botte. Sì, infatti potresti cose prenderlo. Di cui abbiamo bisogno nei giornali. Ma infatti i correttori di bozze sono ancora un ruolo importante nei giornali, ormai con i... Non esistono più, ma certo. Dobbiamo fare tutto da soli. E a volte, anzi troppo spesso, in tutti i giornali ci scappano un sacco di errori che si chiamano refusi. Uh-huh. E purtroppo non ce ne accorgiamo. I correttori di bozze di una volta scoprivano non solo gli errori, diciamo, materiali di ortografia, ma anche gli errori di senso, gli errori di significato, sì, gli errori di materiali. Cioè un davanti di apostrofo non l'avrebbero fatto passare. Quello però non l'ho mai visto. Invece su Facebook a Renzi hanno scritto davanti con l'apostrofo, così almeno lui... Come la radio, quando da bambino dicevamo la radio, L'apostrofo a radio. Ah no? sì, no, questa mi mancava, la radio. Però io una cosa, secondo me scrivere su Facebook, su Twitter, soprattutto da un tablet, una cosa, non è come scrivere sulla carta in un certo senso, ha un'altra grammatica, è come un chiacchierino, è come un parlato, e il parlato è diverso, non ne sono così convinto. Che bello. Poi il mio coso fa degli errori, il mio smartphone pazzeschi, il T9, cioè, mi prende cose per un altro, proprio assolutamente. Ci puoi dire un'altra cosa settecentesca, Vincino, alle 7:37? Che ci vuoi fare? Guarda, mi sono svegliato in un altro secolo, posso dirti, No, ma andiamo avanti con... Così, evviva il profilo pubblico, io no. Il ritorno alle origini. Vabbè, ma basta che te lo fai, ti metti lì un po' impettito, ti metti lì col busto di Andreotti, ti fai una foto ufficiale e metti il profilo pubblico di Vincino. Tutto qua, basta, tutto qua. Basta questo per darsi un tono. Vabbè, è facile, è meglio. è più facile di quanto tu possa pensare. Allora, sono le 6:38 minuti, dobbiamo aprire il Parlamento in una giornata in cui ve lo dico subito. A prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo a fermare. Non ci sono grandi notizie. Cioè, quando un giornale apre come La Stampa Mattarella contro abbattere i muri del Brennero, cioè capisci che insomma. No, questa è la notizia più importante. No? Brindani, sono un po' troppo irriverente. No, sei giusto. Sono duro ma giusto. La notizia è che Renzi ha detto che lui, così come gli altri presidenti del Consiglio che l'hanno preceduto, non è stato eletto. Questa è la cosa. Cioè, però insomma lì imbroglia un po' il nostro amico Renzi, perché è vero che nessuno dei presidenti del Consiglio precedenti è stato eletto, perché è stato scelto dal presidente, votato dal Parlamento, ma prima loro erano stati eletti, lui no. sì. differenza. Cioè, insomma, prima in che senso? Deputati o senatori erano stati votati, no? Insomma, sì. Tant'è vero che tutto questo, questa attesa che c'è per i due referendum, quello sulle trivelle e poi quello che ci sarà in autunno sulla riforma costituzionale, sono due referendum che si stanno trasformando in due plebisciti pro o contro Renzi, quindi lui dovrà tenere conto di questo, perché se dovesse perdere il referendum sulle trivelle, le elezioni amministrative e magari anche il referendum sulla riforma costituzionale sarebbe... Insomma, vabbè, ma dai, il referendum sulle trivelle non raggiungerà il quorum, secondo me. Non dovrebbe. È più importante quello della riforma costituzionale, anche perché lui ha legato tutto a ottobre, il suo destino politico, a questo. Quindi. Quello lui l'ha fatto esplicitamente, però non dimentichiamoci che prima c'è il voto nelle grandi città. Nelle grandi città, sì. E a Milano e a Roma, per esempio, il PD non è messo benissimo, no? Perché anche Sala comincia un po' a traballare. Sì. Allora, però, caro Vincino, qua tu che hai parlato sempre senza pruderie sul Movimento 5 Stelle, adesso questa però non te l'aspettavi neanche te, ti devo chiedere, ma che succede adesso? Diventeranno un partito? Un partito fatto e finito? Certo, questa cosa già fa irritare, la domanda mi attirerà insulti da tutti quelli del Movimento 5 Stelle che diranno non capisci! Non lo so questo, non ne sono convinto. Ora, io un disegno che ho fatto oggi, in realtà... Casaleggio ha avuto una funzione, cioè senza Casaleggio Grillo avrebbe fatto il movimento dei forconi, questo è il punto. Casaleggio ha trasformato questa forza brutta, magmatica che è Grillo, in qualche cosa, un movimento un po' brutto e magmatico anche quello, però insomma un po' meno brutto, bruttino e magmatichino, esattamente. Ora come andrà a finire, veramente, in realtà il disastro è il vicepresidente della Camera Di Maio, poteva farci sentire di più e meglio, non lo so. L'idea che manca la testa adesso, manca il papà, la base ancora, sì, a parte alcuni che sicuramente hanno acquisito esperienza, forse insomma c'è il rischio disorientamento. Sono fatti loro e speriamo che non siano mai fatti nostri, cioè che non arrivino al governo, però come dire, eccoci qua. Vincino è sempre così, se lo so, blindati. Sono fatti loro. Sì. No, sono anche fatti nostri un po', no? Spera di no, Vincino. Guarda, io mi ricordo dagli antichi studi universitari la differenza fra i movimenti allo stato nascente che poi diventano istituzione, no? Che era, mi ricordo, la vecchia tesi di Alberoni sull'innamoramento che poi diventa amore. Il Movimento 5 Stelle ha vissuto lo stato nascente, ma diventa inevitabilmente istituzione, quindi diventa partito, che dovrà dare delle regole diverse, dovranno scegliersi un leader, ma questo è un bene per il movimento stesso. Sai che contraddice quelli che sono un po'. Già l'idea del direttorio a qualcuno non è piaciuto nella base, no? È l'idea di un leader, l'idea quindi di un, come dire, come lo chiamiamo? Segretario? No, per carità, non si può. Presidente? No, per carità, uno vale uno. Primo server. Un altro nome. Primo? Primo server. Primo server. Non lo so. Si potrebbe chiamare così primo server, non lo so. Server della nazione, direttore, qua. Bello è che un politico meridionale di quelli proprio Di Maio è proprio uno di quelli dalle parti della campagna fatto e preciso. Sia fisicamente che come. Dire questo? Che stai facendo del razzismo? Tu che sei palermitano. Io sono palermitano, li conosco i politici meridionali, proprio quelli siciliani poi sono ancora peggio. Che vuol dire campano fatto finito? Vai avanti. Non so, Mastella, De Mita, quelli sono colti, però no, uno più basso di... Mamma mia, ragazzi! Si è svegliato, non lo dovevo chiamare proprio. Si è svegliato nel 600 e continua a scavarsi la fossa così. Devo dirti che ieri notte ho sognato Grillo, guarda, pazzesco. Non ci credo. Ti giuro, in un sogno a un certo punto capita una cosa, c'è lui, ci litighiamo un attimo e... Non lo so, guarda, poi mi sveglio e confuso, molto confuso, molto confuso. Poi ho visto Renzi in televisione là su Twitter, su coso, in difficoltà, no? Che cercava di... è un disastro. Seguire... poi ho visto Jay Simpson, aspetta, allora ho visto Renzi, Jay Simpson che scappa con un fantasma sopra che lo insegue. Brindani, fai qualcosa, chiama il 118 per me. Ti prego, perché io sono impossibilitato. Devi mangiare più pesante vicino alla sera, dai, sì, su. Sì. No, comunque la questione qui è seria. Insomma, per Brindani diventeranno inevitabilmente un qualcosa di simile a un partito. Ecco. Ma lo sono già diventati. Pensa ai sindaci delle città, pensa a quello che succederà a Roma se la Virginia Raggi, come è probabile, dovesse vincere. Si devono istituzionalizzare. Non è possibile diversamente se vogliono restare nell'ambito democratico, cosa che è ovvio che faranno. Sì, sentiamo Dario Fo, che dice è il figlio di Casaleggio che prenderà il suo posto. Sentilo, Dario Fo. C'era il ragazzo più grande, che ha 40 anni, e che è quello che da tempo, lo sapevo, aiuta il padre nella conduzione dell'impianto. Ma è ovvio. Io per esempio a un certo punto ho delegato mio figlio a Dario Foche dice impartisce così lezioni di successione dinastica, evidentemente. Anche Salvini, attenzione qua, il cordoglio di Salvini per Casaleggio. Salvini: non l'ho mai conosciuto personalmente, ho espresso il cordoglio a lui, alla famiglia, agli amici e ai sostenitori, sperando che ci sia chi porti avanti la sua battaglia, quindi posso solo fargli auguri per il fatto che il vuoto non sia troppo grande. Questo Salvini, vabbè, staremo a vedere. Intanto andiamo al traffico, devo salutare un po' di persone. Vincino confuso infelice, mi scrive un ascoltatore. Milan, potevi anche lasciare Vincino dormire, lo so, ma questo ce l'ha detto lui stesso. Davide da Trieste però conferma. Dai, andiamo al traffico, poi rientriamo. Il traffico è come Brunetta. L'hai visto il traffico? Traffico? Alessandro, noi italiani non siamo infantili. Siete voi giornalisti che volete che noi siamo infantili. Perché voi confondete le idee. Siete 10.000 giornalisti e ognuno dice la sua. A chi dobbiamo credere? A nessuno. Guardatevi voi prima quello che dite e quello che scrivete. Caro Milan, è chiaro che in Italia per stare simpatici a tutti bisogna morire. Quindi ti auguro di suscitare antipatie per i prossimi 100 anni. Ciao Milan! Io una volta per tutte voglio sapere, Milan, che cavolo di nome hai? Alessandro o Alino? Come cavolo ti chiami? Ciao Milan, buongiorno, tutto confermato, siamo una squadra di brocchi. Alessandro, c'è una vecchia lira, ma povero te. Brocchi, brocchi, brocchi, brocchi. Vabbè ragazzi, adesso fermatevi perché Brindani, adesso ci si fermino tutti un po' da refuso, insomma da correttore di bozze. Si fermino tutti quanti, sono il primo io a dire brocchi, brocchi, brocchi, tra l'altro cresciuto nella Pro Sesto, quindi grande massima stima per un giocatore cresciuto nella squadra della mia città, Sesto San Giovanni, però mo basta, fermatevi. Allora il mio nome è Alessandro Maria, se proprio Alessandro Maria Milan, Alino per gli amici, e va bene così. Adesso vedi Vincino, ho creato un caso perché uno dice ma non trovo la tua pagina pubblica. No, non quella tua di Vincino, la mia. E vabbè, cerca, dai, cercala, non... si troverà. Comunque vi voglio parlare di questo caso, ma l'avete seguito il caso, Brindani, l'hai seguito il caso di questa rumena che Doina Matei, quella che aveva ucciso con un ombrello, sì, Vanessa Russo, e che adesso in semi libertà si è messa le foto su Facebook, tutta lei. Anche lei su Facebook. Facebook. Certo, ho capito, ma non può mettersi. E adesso non vorrei. Cioè, qua abbiamo tra l'altro Vincino, uno che l'hai seguita tu la vicenda, no? Sai che uno che le carceri le conosce, Vincino, ma adesso non sto facendo ironia, si batte anche per il diritto alla rieducazione. No, alla... Scusa, Alessandro, perché mi sembra che il suo avvocato Marazzitto abbia detto che lei non aveva la proibizione esplicita di mettere delle foto su Facebook. Esatto. E la cosa che ho sentito dire in queste ore, ieri, da alcuni colleghi era: ma scusate, ma se lei deve tornare in carcere perché ha messo una foto in bikini su Facebook, Corona cosa dovrebbe fare? No, ma infatti, cioè adesso tocca difenderla, cioè ha messo delle foto su Facebook, cioè cos'è, non ha diritto alla felicità perché sta scontando una pena, adesso è in semilibertà e non può, deve fare le foto tristi, deve fare le foto in cui piange, deve fare le foto in cui non sorride, non lo so, non capisco che tipo di accusa ci sia nei suoi confronti, ha fatto delle foto in cui sorride e porca miseria, che deve fare? Anzi... No, recuperato, no. Come dire, ma sì, dai, 9 anni di carcere, 8 anni di carcere. Beh, però ha ucciso una ragazza. Su ho questo... capito, ma apposta, dico, ma dopo 9 anni di carcere è una persona migliore. Ma di questo non sarei tanto sicuro. Esatto, il problema è che bisogna, come dire, rispettare quelle che sono le norme. Se le norme le consentono di uscire in semilibertà dopo 9 anni. Possiamo criticarle, cercare di cambiare la legge, ma la legge va rispettata. Il punto è un altro, il punto è perché lei cosa ha fatto nel mettere queste foto su Facebook? Quale reato ulteriore avrebbe commesso? Ma credo probabilmente nessuno. C'è anche una componente, va detto questo, di razzismo nelle reazioni che ci sono, non tanto nella decisione di farla tornare in carcere, perché se non fosse la cittadina rom... forse non saremmo qui a parlarne con questa indignazione. Sì, tra l'altro io capisco l'ira della mamma, la capisco, perché la mamma che dice mia figlia Vanessa è stata uccisa, è nella tomba e lei è in spiaggia, e questo è un discorso che io posso capire, cioè pensare che la pena possa essere stata troppo... Ma questo vale per il sistema giudiziario italiano, che poi alla fine... L'ergastolo viene combinato, ma poi non esiste perché dopo poco più di 20 anni si esce. Quindi ti ripeto, bisogna dire se mai. Infatti questa mamma dice: mi aspettavo l'ergastolo, non che dopo 8 anni fosse lì a sorridere. Abbiamo fatto 2 o 3 referendum per abolire l'ergastolo. L'ergastolo è una pena incivile, ma io non lo so. Cioè, in Norvegia, in Svezia, in cosa le pene maggiori sono 10-15 anni per quello che ha fatto la strage, ha preso, non so, 18 anni, 16 anni. Forse un po' noi, esagerato. L'ergastolo da noi è virtuale, non c'è pena mai. C'era, abbiamo fatto del referendum per abolirlo, sì. Non è vero che non c'è, dai. Se no, che referendum abbiamo fatto? Dai. Tra l'altro, giustamente Lorenzo Nespoli mi fa notare dalla redazione che pare che il giudice abbia revocato la semilibertà perché doveva essere al lavoro quando ha fatto le foto. Allora, questa è una cosa che posso capire. Cioè, se fosse così, invece di essere al lavoro era lì a farsi le foto in bikini e quindi ha violato questo tipo di consegna. Quindi le foto sarebbero la prova che lei non era lavorare. Che non era lavorare, non tanto non ha diritto alla felicità e quindi se ne deve stare in carcere, ma ha fatto le foto mentre doveva essere da un'altra parte, secondo le regole della semilibertà. Questo non lo so, comunque ve la faccio sentire, Mattino 5, i nostri amici, Federico Novella e la sua giornalista l'hanno pizzicata, Doina Matei, che l'hanno chiamata e quindi può rispondere anche al telefono evidentemente, e sentite che dice. Io ho alzato la mano per fermarla, non ho fatto con l'ombrello, non l'ho usato come una spada, non l'ho usato come un'arma, nessuno mai non poteva pensare prima di succedermi a me che una persona può morire da un ombrello. Insomma, vabbè, si difende sulla questione ombrello, Vabbè, che vi devo dire, Vincino, ti voglio lasciare con Razzi, hai presente Razzi? No, mamma mia, no, per favore, guarda, lasciami meglio. Vabbè, allora non te lo faccio sentire. Raggi. Allora, guarda, allora non c'è neanche più tempo, niente. Se tu, ogni tuo desiderio per me è un ordine, non vuoi sentire Razzi, io non te lo faccio sentire. Tu Brindani lo vuoi sentire?